Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera andiamo a Varese per parlare di un progetto che rientra tra le iniziative di Varese Smart City. Si tratta di una sperimentazione, ormai ad uno stadio molto avanzato, di applicazione della tecnologia NFC ai pagamenti. Abbiamo già parlato di questo NFC, significa Near Field Communication, e altri non è che un caso particolare di una tecnologia già largamente in uso da anni, la tecnologia RFID. In pratica è una sorta di francobollo intelligente che è in grado di scambiare dati quando viene accostato a un apposito lettore. È un modo molto pratico e veloce per identificare persone e cose. Per esempio, gli abbonati alla metropolitana milanese entrano sfiorando un sensore che si trova nei tornelli d'ingresso grazie al fatto che la tessera di abbonamento contiene all'interno uno di questi francobolli intelligenti. La novità è che grazie alla diffusione della telefonia mobile e degli smartphone, questo sistema può essere utilizzato per una miriade di nuove applicazioni, tra cui il pagamento, soprattutto di piccole cifre. E a Varese è in corso ormai da più di un anno uno degli esperimenti più avanzati sul territorio italiano, esperimento che nasce da una collaborazione tra l'Università LIUC di Castellanza, che ha ideato e coordinato il progetto, e tre aziende rappresentative dell'ecosistema che bisogna mettere in piedi per far funzionare il tutto. Un operatore di telefonia mobile, nel nostro caso Vodafone, un circuito di credito, carta SIM, e una banca, nello specifico caso UbiBanca. La prima fase del progetto è servita a testare il sistema. Hanno partecipato 50 cittadini che sono stati dotati di uno smartphone abilitato, a cui però si possono aggiungere 5.000 altri cittadini presenti sul territorio di Varese in possesso di una carta di credito rilasciata appunto dalla banca UBI che contiene la possibilità dell'utilizzo dell'NFC. E poi hanno partecipato anche 70 negozianti che si sono dotati del sistema di pagamento, del POS necessario, negozianti che però nel frattempo sono già divenuti 300. Ieri con un convegno a Varese questa prima fase si è conclusa e ora si apre la fase 2 con cui si punta ai grandi numeri. Tanto per cominciare, verrà aumentato il numero di utenti del sistema distribuendo altri 450 smartphone NFC. A Varese ho incontrato il professor Luca Mari, direttore del laboratorio LabID dell'Università LIUC, al centro di tutta questa vicenda, che ce ne parla così. Sentiamo. Il progetto nasce in effetti da un'idea che l'università ha proposto agli attori istituzionali di questo territorio, la Camera di Commercio e Confindustria della provincia, proprio per utilizzare al servizio della collettività le tecnologie di cui stiamo parlando. L'università, oltre che un portatore di conoscenza, in questo caso si pone come un soggetto terza parte che garantisce che l'architettura, prima l'ho chiamata anche l'ecosistema, sia aperto. Siamo in grado speriamo di garantire che tutti i soggetti che vorranno entrare, quindi altri operatori telefonici, altre banche per esempio, o per offrire nuovi servizi naturalmente, possano connettersi, attaccarsi, diciamo così, a questa stessa architettura. È in questo senso che noi riteniamo ci sia una novità nel progetto e in questo qualifichiamo il ruolo dell'università. Lei a un certo punto diceva: siamo nel mercato ma non siamo del mercato. Questo è, diciamo, un modo di interpretare il ruolo dell'università che viene fuori in questo progetto, ma forse generalizzabile. Sì, concordo. Naturalmente è solo uno dei modelli possibili. Ci sono delle università che accettano di essere anche del mercato nella forma, per esempio, degli spin-off. La nostra scelta invece è proprio contraria. Riteniamo di non volerci chiudere nella famigerata torre d'avorio, cerchiamo di essere estremamente concreti, ma, come accennavo, rimanendo attori terze parti, in modo che tutti coloro che vogliono rivolgersi all'università, oltre che conoscenze e competenze, possano trovare un soggetto terzo al quale rivolgersi nelle dinamiche del mercato, come dicevo, senza essere del mercato. Tra l'altro non abbiamo raccontato che questa idea nasce all'interno dell'università, nel senso che viene anche applicata per la prima volta proprio dentro l'università, no? Gli studenti, 1500 studenti credo che abbiano la tessera universitaria che funziona anche con tecnologia NFC per quanto riguarda il loro rapporto burocratico, diciamo così, con l'università. È vero, cioè questo progetto nasce da un'esperienza concreta nella quale tra l'altro abbiamo anche rodato la relazione con il gruppo UBI, il fatto di aver deciso di abilitare con modalità NFC il tesserino universitario degli studenti della nostra università, che oggi si ritrovano appunto su un unico rettangolino di plastica, non solo i dati di identificazione, ma anche lo strumento per accedere a servizi molteplici e a possibilità di pagamento diverse. Adesso su che cosa lavorerete? Ci può fare qualche esempio di allargamento delle applicazioni di questa architettura che avete messo a punto ad altri casi? Se nella prima fase abbiamo costruito l'infrastruttura, la seconda fase, quella più interessante, non farà nient'altro che sfruttare questa infrastruttura per offrire nuovi servizi, ci auguriamo il più possibile innovativi, che creino il valore aggiunto per tutti gli utenti. Smart Poster, per esempio, o Smart Totem, che vuol dire essenzialmente che l'utente finale sul display del telefono può ottenere informazioni, per esempio a proposito degli orari dei mezzi pubblici, semplicemente avvicinando il telefono stesso al punto, l'ho chiamato adesso Smart Poster, al punto in cui il tag è stato posizionato. Quindi parcheggi, possiamo immaginare sicuramente mezzi pubblici. Altri esempi? Non lo so, la biblioteca diceva. L'accesso alle biblioteche, l'accesso appunto a servizi pubblici, a uffici pubblici dai quali possiamo ottenere informazione, diciamo, in modo facile. Altri servizi offerti alla collettività, da pubblici o privati, un esempio canonico ormai potrebbe essere il bike sharing, per esempio, no? Invece di avere un dispositivo apposta per poter prendere in prestito la bicicletta, il nostro telefono può essere adottato per questo, perché no? Anche per questa sera abbiamo concluso. Da Maurizio Melis, buona serata.